lavoro invito il camion con i mobili. Partire da Murano, destinazione Milano. Mia sorella, un cognato e i miei due nipoti sono andati lì. Mi faccio tanti auguri con il cuore, anche se mi mancate sempre più. Purtroppo questa è la vita, chi resta e chi va via. Ma se per voi è meglio, buona fortuna. È importante che voi non vi scordiate mai di noi. Tanta gente qui vi vuole bene, ma di più chi vi appartiene sono io che vi canto, sono io che vi penso, anche se ci vedete. di più chi mi ama.